sempre in troppi zio. Sopra un Renault Clio, un Mini Cooper con le tippe nude sopra il cazzo mio. Cremo, mischio, giro, faccio un tiro e dietro l'altro fumo come un trio, zio. Da quanto giro c'ho le suole lisce. Da quanto tiro quando passo vedi solo strisce. Da quanto scrivo gli altri rapper si sentono merde. E sono sconosciuti come la password di un server. Lo fai da 10 anni ma perché non vai avanti? Lo fai da una vita e da una vita che non canti. Lo fai per una fica ma la fica ti rifiuta. Il tuo rap frate mi sa che perde la valuta. Come la banconota che inseguiamo ormai da anni. Tu insegui una tipa che si fa dare da tanti. Siamo in fila frate come ai tornelli, in stanza sua c'è la bolgia con me al derby. Franco Scitto, Vallanzasca di sto rap. Sempre in chimica, gli altri rapper fanno da snack. Con la camicia G-Star, con la tua tipa giù al bar. Me la pompo forte, lei si pompa il mio rap fra. Non ci fotti zio, siamo sempre in troppi zio. Sopra un Renault Clio, un Mini Cooper con le tippe nude sopra il cazzo mio. Cremo, mischio, giro, faccio un tiro e dietro l'altro fumo come un trio, zio. Non sono come Dio, io non credo a niente. Io c'ho un flow potente, tuve a convenienze. Metto sempre il meglio in ogni tasto. La gente mi dà dei titoli e io li investo. Io non vesto Prada, ma sono un diavolo in strada. Tutti che cercano grana, ma solo per la fama. Cappa in camera, marijuana, chi si altera, valeriana. Ubi, R, tiki, taka, si dilagate, chi ti caga. Voglio una valigia piena di cash. E poi li spendo tutti per me. Se fosse vero, settimo cielo, fra forse è vero, ma non ci credo. Siamo sul palco che show, bro, il vostro uno show da scemi. Cazzo frate che flow, c'ho, se vuoi darmi soldi vieni. Stai con noi 2 giorni e svieni, non è che se premi hai premi. Sei nella lista di uno statista, muori se vai contro Lenin.